Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti, da Olga e Frey. Bentornati su Van Loon, il vostro programma di storia del sabato pomeriggio sulle frequenze di Radio Città Fucico. Questo sabato vi parliamo, vi proponiamo anzi una puntata un po' diversa dalle altre, perché parleremo sì di storia, ma lo faremo attraverso le parole scritte da chi storia non la fa e probabilmente, pensiamo noi, la storia non la conosce neanche troppo bene. Vi parliamo ovvero dell'iniziativa editoriale di Quotidiano Nazionale QN, marchio che racchiude le testate locali di Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. Qual è questa iniziativa? Dal 17 ottobre scorso, quindi sono passati già un po' di giorni, per una decina di giorni dopo il 17, nelle pagine culturali della testata si sono susseguiti degli articoli di una rubrica chiamata La morte della patria. L'idea di questa rubrica temporanea, possiamo dire, è venuta al direttore di Quotidiano Nazionale, cioè Andrea Cangini, che dopo pochi giorni aver subito la perdita del padre, Franco, che è lui stesso stato direttore del Resto del Carlino negli anni Ottanta, Franco Cangini nel punto di morte ha espresso il desiderio verso i suoi familiari di essere vestito in camicia nera. Anche se, cronologicamente parlando, Cangini, senior del 33, e quindi era troppo piccolo per combattere per la Repubblica di Salò. Noi, sinceramente, lungi dal denigrare le ultime volontà di una persona che si congeda alla vita, vogliamo discutere sull'uso pubblico della storia, sull'uso pubblico che si è fatto in particolare in questa rubrica, di come la storia sia diventata, o un pezzo di storia siano diventati, un mezzo per propagandare idee che a noi ci sembrano di destra e nazionaliste, in un dibattito sicuramente a senso unico che chiama in causa il fascismo e anzi lo assolve e traccia un percorso che si avvicina alle grossolane tesi del fascismo che fece anche molte cose buone. L'incipit della rubrica Uguale per tutte le uscite recita: l'8 settembre 43 come morte della patria è la tesi di vari intellettuali. Nell'armistizio videro un tradimento morale. Per molti andò allora in frantumi l'idea di nazione. E a seguire i nomi di chi scriverà un pezzo nei giorni successivi, nomi importanti come vedremo. Un tradimento della nazione dunque, ma quale nazione? Fino al 25 luglio 1943 c'era stata in Italia la dittatura fascista, erano 21 anni che il Partito Nazionale Fascista cercava di costruire con tutti i mezzi una nazione italiana. Non a caso, infatti, il mito della nazione abbraccia tutti gli aspetti della politica fascista, che cerca di superare il dualismo Stato-Nazione tipico degli Stati liberali con il primato assoluto dello Stato fascista, ovvero lo Stato-Partito. Dall'identificazione tra società, Stato e nazione deriva la politica totalitaria del fascismo, ispirata al principio che non può esistere alcuna forza politica al di fuori dello Stato. Teoria subito chiara, sin dagli esordi del fascismo, anche per questo motivo, annoverato come totalitarismo e non come regime autoritario. Questa è in brevissima sintesi l'idea di nazione del fascismo. Non è chiaro se chi scrive questo incipit della rubrica abbia in mente questa idea quando parla di morte della patria dopo l'8 settembre del 43. Oltre a questo esperimento di discussione su una rubrica di tenuta su un giornale, vogliamo proporvi un altro esperimento, proponendovi l'ascolto di un concept album anziché diverse canzoni nell'arco della puntata. Vi proponiamo in questa puntata l'ascolto di Contraveleno, l'album del 2017 degli AVA, un gruppo pubblicato dalla Maple Death, etichetta locale. L'album ha raccontato molto bene, secondo noi, in maniera molto efficace il clima che si respirava nel 43-45 in Italia e quello che voleva dire veramente una guerra civile, non come viene detto sulle pagine del Quotidiano Nazionale. Iniziamo con l'ascolto di Strade più buie. Troppo rinno ritorniamo sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Stiamo parlando in questa mezz'ora di storia con noi degli articoli usciti sul Resto del Carlino una quindicina di giorni fa, degli articoli che parlano della morte della patria, come è stata intitolata questa rubrica, e noi cerchiamo di commentare e vedere come la storia è stata trasmessa negli scritti di questi articoli. Cominciamo con uno storico, in realtà, perché è lo storico Franco Cardini, che è un medievista esperto di crociate, è scritto anche in gioventù all'MSI, ci parla all'inizio del suo articolo di Don Camillo e Peppone, e come esempio il racconto di Guareschi di un'Italia che, testuali parole, più semplice e ingenua, ma molto più pulita di quello che di adesso, affermando che la scelta dei ragazzi di Salò, come vengono chiamati, deve ricordarci un equilibrio morale che ormai noi abbiamo perso, e continua Cardini definendo cialtroni, recito, i neofascisti di oggi e grottesco l'antifascismo odierno, chiudendo affermando che sì, forse la camicia nera era stata un simbolo di tirannia e di violenza, ma molti la indossarono con onore. Per questo dobbiamo rendere onore appunto a queste persone. Ma c'è anche un altro storico negli scritti di questa rubrica. Questa volta è un contemporaneista ed è esperto di fascismo, è Francesco Perfetti, che però ci mette in guardia nello smascherare l'ipocrisia, e qua cito testualmente, della dicotomia fascismo e antifascismo. E continua, richiamandosi all'origine della Repubblica. La guerra civile contrappose italiani e italiani in nome di ideologie avverse, ma più spesso in nome di vendette private. Sottotraccia, leggendo queste poche righe, sottotraccia ma non tanto, pare esserci, secondo noi, il totale svilimento della resistenza. In pratica, i partigiani e le partigiane che hanno combattuto, perdendo spesso la vita o rischiandola, lo hanno fatto non perché credevano nella libertà, nella democrazia e perché no nella rivoluzione, ma l'hanno fatto, pare, secondo questo storico, per questioni private. Andando avanti, per Luigi Battista, che è vice direttore del Corriere, la cui ultima fatica si chiama Mio padre era fascista, sulle vicende appunto del padre che era stato volontario a Salò e dirigente dell'MSI, ci parla della guerra civile, dicendo che è un'espressione fino a pochi anni fa bollata come pericolosa, una frattura che ha spaccato l'Italia e che ha diviso la memoria, la quale resta divisa perché la memoria non si può ricucire. Forse su questo ci troviamo anche abbastanza d'accordo, ma per opposte opinioni. Però ci fa un appello nello scritto: deve esserci una storia comune nel quale i vinti, questi vinti forse di panziana memoria, debbano essere capiti nelle loro ragioni. Bisogna capire perché abbiano scelto di stare dal lato sbagliato della storia. Ma cos'è stata nella storiografia in realtà la guerra civile? Ce lo spiega benissimo Claudio Pavone, che nel suo Guerra civile, saggio sulla moralità della resistenza, ci dice che ci sono fonti alte e fonti basse che attestano effettivamente che tra il 43 e il 45 nel centro e nel nord Italia c'è stata una guerra civile dove sì, amici, parenti si sono ammazzati a vicenda e odiati per decenni. Noi ne prendiamo atto, ma Pavone ci dà un consiglio, anzi un ammonimento. Questo non significa sminuire il valore della resistenza. Ancora Pavone ci dice che subito dopo la liberazione il tabù contro la guerra civile era stato meno forte. In seguito però l'unità antifascista viene reinterpretata in chiave antinazista e quindi, diciamo noi, patriottica, ci sembra di capire. E qui arriviamo a Luciano Violante, che ricordiamo nel 1996, nel suo discorso di insediamento come presidente alla Camera dei Deputati, rese omaggio ai ragazzi di Salò, il quale nell'articolo pubblicato sul Resto del Carlino afferma che per 50 anni l'Italia è stata una democrazia senza patria, senza nazione, a causa del Partito Comunista Italiano, di cui lui peraltro faceva anche parte, ma incalza in più dicendo che il fascismo stesso ha ucciso la patria, facendola corrispondere al partito, e comunque ci dà un consiglio. Con il senso di responsabilità e il senso del dovere si supererà ogni frattura e si costruirà finalmente la patria. Dopo il 25 aprile 45 la patria è stata rifondata e come, che ci piaccia o meno, sui pilastri, almeno sulla carta, di democrazia, lavoro, libertà e antifascismo. Non solo, già prima del 1945 il PC, queste sono nostre aggiunte naturalmente, non è il discorso di Violante, il PC aveva cominciato a elaborare una teoria per la quale la lotta antifascista doveva essere inserita nella tradizione nazionale per rifondare ancora la patria avvilita dai fascisti e occupata dai tedeschi. Non a caso da qui la lettura della resistenza nella memoria collettiva come un nuovo risorgimento a cui faceva anche riferimento Olga prima. Per cui le discussioni sono tante e con questa parola patria che deve essere rifondata si sta giocando un po' troppo. Torniamo a ascoltarci un altro pezzo degli AVA, sempre da Contraveleno, il loro album del 2017. Ci ascoltiamo adesso Rasentando i muri. Di nuovo in onda con Vallun, il vostro programma di storia del sabato pomeriggio su Radio Città Fujiko. Stiamo parlando dell'avventura, chiamiamola così, editoriale del Resto del Carlino, che circa 2 settimane fa, per una decina di giorni, ha fatto uscire nelle pagine culturali una rubrica che si chiama Morte della Patria, dove hanno scritto personalità della politica e della storia, e noi stiamo commentando questi scritti. Arriviamo a un altro punto che tocca in realtà vari articoli e che ci dice Walter Veltroni, che del fascismo non si parla abbastanza e non può essere dimenticato. Il titolo del pezzo di Veltroni recita «Rimuovere il fascismo dalla storia». Storia, notiamo bene, con la S maiuscola. Due punti, un errore che ci ha reso fragili. Veltroni afferma che il fascismo non è stato un semplice incidente di percorso nella storia italiana, e questo... Non ci piove. Ma il fascismo ha avuto moltissimi consensi, ed ha avuto molti consensi per tutti i 20 anni che è stato al potere, ed è assolutamente vero. Noi ci inseriamo in questo discorso dicendo che è difficile per gli storici avere una mappatura del consenso del regime, perché ciò banalmente riguarda questioni private, emotive, sentimenti e storie personali della gente comune che noi non possiamo rintracciare, che la ricerca storica non potrà rintracciare. Quello che si è ricostruito abbastanza bene però è l'appoggio di alcune parti della società, per esempio l'appoggio quasi incondizionato degli industriali, memori dalle spinte rivoluzionarie del Biennio Rosso, che ancora li faceva tremare, e il fascismo per loro sembrava un giusto compromesso tra la violenza e il mantenimento dello status quo, come a dire meglio una dittatura che una rivoluzione. Il cedimento della grande industria sin da subito, quindi parliamo già dell'inizio degli anni 20, spiana la strada per dare anche una risistemata ai quotidiani nazionali. Già nel 26 le grandi manovre erano concluse, Mussolini poteva dormire sonni tranquilli perché a capo dei grandi quotidiani nazionali c'erano tutti fascistissimi. Non importava se fossero giornalisti o no, importava solo che le grandi firme liberali che avevano scritto fino allora sui giornali come Luigi Einaudi, Salvatorelli, Carlo Sforza erano state messe da parte. Parlando di Resto del Carlino, per 20 anni si alternano 9 direttori, nessuno dei quali è giornalista professionista, ma sono tutti assolutamente del PNF fascistissimi. Passando alla cultura, Giovanni Gentile, che era stato ministro dell'istruzione, nel 25 redige un manifesto degli intellettuali italiani per testimoniare la fede al fascismo della cultura italiana e per spazzare via la stolta leggenda, si legge su un telegramma che Mussolini manda a Gentile che è in visita a Bologna, per spazzare via la stolta leggenda della incompatibilità tra intelligenza e fascismo. Insomma, in pochi anni, volenti o nolenti, tutta la cultura italiana si consegnerà totalmente sotto l'ala protettiva del fascismo. Questo per dire che sì, c'era un consenso ed era anche netto, mi sembra, solo che non possiamo ricostruire la storia rispetto alle questioni private della gente comune, possiamo solo ricostruirla sulla base dei dati storici che gli archivi ci mettono a disposizione, con buona pace di Veltroni che forse non ha ben capito la questione del consenso. L'altro di cui vi parlo è Ernesto Galli della Loggia, editorialista, giornalista, probabilmente anche storico, che scrive, una delle personalità più importanti in questa rubrica, anche la più famosa, rimprovera agli antifascisti di aver visto nel fascismo una negatività assoluta e irrimediabile. Gli antifascisti che cosa hanno fatto? Come si dice in gergo, hanno buttato via l'acqua sporca con tutto il bambino. Non ci spiega però Galli della Loggia quale poteva essere questa non negatività di un regime totalitario. E continua: i motivi non spregevoli del successo iniziale, parla del fascismo, e ancora di più del suo consenso dopo il regime, non si esaurirono di certo il 25 luglio o il 25 aprile 45. Del lungo dopoguerra, chi a quei motivi era legato, chi in essi riponeva la propria identità, si sentì ancora legato e identificato al fascismo. Buongiorno Ernesto Galli della Loggia. Il problema dell'eredità del regime naturalmente è particolarmente grave per quelle generazioni che hanno subito l'influsso della propaganda senza, per motivi anagrafici, aver conosciuto il regime liberale, vale a dire i giovani che si erano formati come Balilla, come nella Gioventù Littoria, e che avevano studiato sui sussidiari del regime e che poi erano andati a morire nelle campagne d'Africa, dei Balcani e di Russia. Per alcuni aver partecipato all'organizzazione di massa aveva significato un canale di maturazione personale che aveva poi prodotto, fra le altre cose, anche l'antifascismo militante e lo schierarsi con la resistenza, come ben ci racconta una fetta di letteratura neorealista del dopoguerra e buona parte di militanti partigiani. Oppure no? Già all'alba del 46, quando ancora la nuova costituzione antifascista non era entrata in vigore, rinasceva dalle sue ceneri il fascismo del Movimento Sociale Italiano, quindi il ben noto MSI. Dopotutto i fascisti erano sì sconfitti, ma non scomparsi, e questo è evidente, possiamo essere d'accordo con Galli della Loggia. Nel 48 ricordiamo che l'MSI ha come segretario il repubblichino Giorgio Almirante, ormai considerato da qualcuno anche fra i padri della patria probabilmente, e riesce a far sedere sugli scranni della Camera dei Deputati ben 6 dei suoi, nonostante la dura polemica di tutte le forze antifasciste. Nel 1953 l'MSI ottiene addirittura il 5,8% dei consensi al grido di Duce, Duce. La galassia del socialfascismo era pronta a far saltare gli equilibri e conquistare consenso con il beneplacito della Democrazia Cristiana. Infine, vogliamo soffermarci un attimo sull'articolo di Marcello Veneziani, nostra vecchia conoscenza, a proposito del 68, di cui parla molto spesso, e naturalmente ne lo cita anche in questo pezzo, adducendo al 68, il conformista 68, tutti i mali della società italiana. Mannaia della patria, inizio del virus con effetti ancora attivi nella società, e dico che adesso vi citiamo in ordine sparpagliato: la nascita di una lobby omosessuale, ovviamente l'annichilamento della famiglia, evidentemente l'aborto legale, vero incubo di Marcello Veneziani. Oltre a questo, nell'articolo fa leva sul neologismo pare da lui inventato, lo sfascismo, ovvero testualmente la voglia di sfasciare la nostra nazione, la nostra identità, la sovranità, i confini e la sua civiltà. Insomma, il neofascismo può essere un atto romantico di rivolta contro lo sfascio o sfascismo della patria, una patria perduta dopo l'8 settembre. Allora, ancora una volta gli Ava, ancora una volta il loro album Contravveleno, ci ascoltiamo, Sanno che ci siamo. Sulle frequenze di Radio Città Fujiko, siete con Ballun, il vostro programma di storia del sabato pomeriggio. Siamo Olga e Frey e abbiamo appena finito di commentare la rubrica, meno male finita, del Resto del Carlino, in cui si parlava di morte della patria, tra molte virgolette, diciamo noi, forse per loro no, e di storia, specialmente di storia del fascismo e di storia dell'antifascismo. Dopo aver letto tutti gli articoli e averne citati alcuni in ordine sparso, mettendoli insieme, no Frey, possiamo dire che questo sembra un appello di Messina Memoria a raccoglierci sotto il vessillo della grande Italia fascista. Qual era la grande Italia fascista? I treni in orario, le bonifiche, una disciplina che funzionava mica come adesso, e naturalmente del libro del moschetto. Solo che siamo nel 2017, sappiamo cos'è stato il fascismo e sappiamo purtroppo ancora cos'è il neofascismo, che, come diciamo sempre, che non si presenta in camicia nera, altrimenti lo riconosceremmo all'istante, ma il fascismo di oggi si presenta in cravatta, in smartphone e con gli occhiali scuri. Su questi articoli ci sarebbe tanto da dire, non sono state invitate donne a scrivere naturalmente su questo argomento. L'iconografia è quella, richiama molto l'immagine che strizzano l'occhio un po' al regime, al recupero di una certa memoria. Comunque noi chiudiamo e vi segnaliamo invece una lettura interessante sull'Italia di Salò, che un libro di Mario Avagliano e Marco Palmieri, l'Italia di Salò 1943-1945, il Mulino 2017, libro che strizza un pochettino l'occhio a questo discorso su i ragazzi di Salò, ma almeno cerca di contestualizzare in maniera molto precisa quelle che furono le motivazioni che spinsero all'adesione all'RSI da parte di molti militari, militanti fascisti e via dicendo. Lettura che vi consigliamo. Andiamo velocemente a vedere gli eventi che ci sono in settimana. Archivio aperto di Home Movies, sito homemovies.it, suggeritissimo. Festival della Violenza Illustrata, andate al blog festivaldellaviolenzaillustrata.blogspot.it dal 7 novembre al 4 dicembre. Prorogata la mostra Tempo d'esilio, l'Emilia Romagna a fianco del popolo cileno 1973-1988 presso la sede dell'Assemblea Legislativa in Viale Aldo Moro, prorogata fino al 30 novembre, bella mostra, peccato che sia un po' lontana. Come ultimo appuntamento, l'assemblea annuale di Storia in Movimento, l'associazione che cura la rivista Zapruder, che a noi sta molto simpatica. Appuntamento raggiungibile perché è Parma, 18-19 novembre, presso il Centro Studi Movimenti. Comunque, per qualsiasi informazione, storiaimmovimento.org. Per oggi è tutto, buon proseguimento di giornata da Frey e Olga. Ciao!